preso la Mantova Turbo, avevo piazzato la Mantova Turbo a Porto Torres e poi me l'ho trasferito in campagna e l'avevo messa sul tetto. E poi avevo venduto tutto, avevo un bel amplificatore, avevo un bel lineare a valvole, aveva 5 valvole, aveva 5 PL 519, non le L, le PL, le 519, era Globetrotter della CTE, no, RM Italy Globetrotter, era RM Globetrotter. E poi avevo un amplificatore bulldozer a 6 valvole, capita, questo era un demonio, questo mi era esploso durante un gas, aveva fatto un casino niente. Poi avevo l'S9 modificato Colt e poi avevo il Pluto e da bui e basta. Però era tutto Voltarne, il Pluto Voltarne, era Mantova Turbo, avevo venduto tutto in continente, anche l'antenna avevo spedito. E poi quando l'ho ripreso un anno e mezzo fa, ho preso il Superstar, la Grazioli e altra roba e ciccia. Ma che moccia avevi della Ringo, quella VT che hai avuto tu? Ho avuto quella, la Ringo, quella che si allungava, tipo canna da pesca. Ma a VT, perché questa che ho io è a VT, per non correre il rischio che si spezzasse, gli ho messo i rivetti. Non me lo ricordo tanto com'era, non me lo ricordo, era quella che si allungava leggera. Sì. Ma a che cavolo gli è successo l'amplificatore? È brigato in aria? È successo che mi sono esplosi i condensatori. E come sono partiti i condensatori si sono spaccate 2 valvole. Ma tu mi devi credere a me che io sono stato tutta notte con le finestre aperte. Mistica, disastro. Capite, disastro. Disastro. Gnazocco. Mazocco. Perché poi come è scattato, come è andato tutto in corto. Mi ha bruciato, è scattato il magneto termico perché avevo la trifase, no? E mi ha bruciato, ed è partito proprio il magneto termico, è partito, capito cosa ha combinato? Ha fatto un disastro dentro casa, mi ha fatto un disastro, mi ha sporcato tutto il mobile, tutta la scrivania. Meno male che l'amplificatore era dentro il suo chassis e il vetrone, ma proprio le valvole lacrimali, tutta la scheda è bruciata, ha fatto un casino di tutto. Allora, roba a pazzi. Te dico sempre io, ragazzi, a maggio da che mi ha detto questa cosa, quando lo uso ho sempre un po' di paura. Antu, adesso tu guarda quanto rimango io in trasmissione, vedi che io rimango tanto, non me ne frega niente, rimango perché di lì c'era un disaccordo tra radio e amplificatore, è successo, capito? E quindi me l'ha partita radio, me l'ha partito amplificatore, tutto si era bruciato. E senza io gli davo 7 watt, 8 watt, li portava benissimo, sempre usato, ne avevo 2 amplificatori, avevo il Globetrotter con il Superstar e quello lì lo usavo col Pluto e mi ha crebato lo Pluto e mi ha crebato l'amplificatore. Il Pluto l'avevo fatto aggiustare ed era tornato bello, L'amplificatore non c'era niente da fare, perché era già un amplificatore vecchio, era cromato, si chiama Bulldozer. Era un amplificatore grosso, era. Ho capito. C'è su che. Ecco da voi. C'è su che disastro. Manco, sicuramente un fiago che non si può dire sta. Fiago? A fin di fiago è poco. Diciamo che come sono, ho lasciato la finestra aperta tutta la notte in sala perché non si poteva stare. Hai visto la macchina del fumo? Hai visto cosa fa la macchina del fumo? Così, uguale. Quando tu accendi una macchina del fumo la lasci 10 minuti accesa, così ha fatto dentro casa. Un disastro. Vedo che poi è andato tutto in camera da letto, cose, ha fatto un casino. Cazzo, tipo una bomba. Boom. Ha fatto un tocco. Un Mephisto. Paf. Minchia, cazzo. Giostra, via. Allucinante, guarda. Bisogna stare attenti, bisogna controllarli sempre i condensatori, Tu pensa che io questo qua, questo piccolino che sto usando adesso, boom, l'ho acceso, aveva il condensatore in perdita, infatti ha fatto un rumore strano, l'ho spento, l'ho aperto e c'erano i condensatori con la schiumetta fuori. E gliel'ho cambiati i condensatori e gliel'ho messi un po' più grandi e così vediamo un pochino. Così si fa dello zoccolo o va se vedo. Sì. Mica è entrato forse da sorso. Avanti. Boom! Avanti, chi è? Antonio, tu sei? Ciao a tutti e due, ben ascoltati comunque. Come va? Tutto a posto, sì. Io sono tutto quanto raffreddato. Quindi c'è qualcosa che... Aspetta, due secondi che mi sto bandendo. Ah, mica sei sottoalimentato, sento mooooo. Cazzo diavolo. San culo. Sono quanto pieno di moccio, cazzo, sono la verità. Aspetta, piglia una tenaglia e schiaccia te, Antonio. E infatti appunto per quello arrapiche. Adesso non metti un po' di sciroppo alla birra, vedrai che già ti passa. Tino, aiuto, molto ti arriva, Antonello. Cosa? Tanto? Ho detto, molto bene ti arrivo, Antonello. Uia, eccomi. Minumi. Però cavolo, Grazioli ha fatto un'antenna molto grande, ha fatto. Allora, Anto, mi stavi dicendo se a Pompugno mi arriva bene, così è. Eia. Quando è entrato aveva un rumore alternato a varia un camion in moto. Vediamo se funziona, che ieri non stava funzionando. Vediamo, com'è? Bene, bene. Bene, e ben tu, com'è? Tutto bene? Eia, è contento il bambino. Però fatti vedere che non sta molto bene, poverino. Contento? Meglio così, dai. L'importante è che siamo piaciuti. E lui gioca. Beh, quello serve. Servono a quello. E va bene, sono contento, così almeno un altro bimbo accontentato. E dove biglia Simone così ti. Allora voi ta. Gli yoga, gli ira, le base. Meglio così, dai, sono contento, abbiamo soddisfatto le, come si dice, le esigenze di un bambino. Ciao team, buonasera. Io sono stato a te stamattina, comunque mi hai fatto il bidone e non ti parlo. No, sono bidone, non ti preoccupare, fregatene. Non ho fatto subito nessuno. A futidini, sono tutto quanto pieno di cose. merda del coso, cazzo. A un certo punto, cazzo. Vaffanculo, cazzo. La freddore, eccetera, eccetera. Ascolta, guarda che ci passi a vedermi con la storia lì. Così almeno vediamo che cavolo c'ha, cazzo, quel coso lì, cazzo. A un certo punto, cazzo, io non so più cosa pensare della verità. A un certo punto, se è intasato, se cosa, Non vado compreso nulla. Sto parlando con Tino, sto parlando con te. Tino, dove tu? No, Antonio, sono incazzato con te. Mi hai fatto il bidone, mi hai fatto aspettare, è venuto Antonio, ho aspettato a te, ho mangiato in fretta per andare a prendere il caffè e non sei venuto. E ciò mi dà noia. Vabbè, ascolta. Forse c'è ragione, la verità, perché forse c'è ragione, la verità, a un certo punto. Comunque sia, ascolta, non lo so, sabato libero sei. Forse, senza forse, togli il forse non ci deve stare. Vabbè, facciamo sabato, ok? Non lo so, sabato vediamo, perché sabato sono la cena dei maturi e quindi ho una cena importante, una cena tra tutti i radiomaturi di Sassari, e mi hanno invitato e quindi devo esordire questo fatto. Non so la tavola, me anche detto, guarda, sarei venuto a venire anch'io, ma siccome io non sono un animatore, quindi a un certo punto, intanto meno, come ti posso dire, a un certo punto, non posso neanche esserci lì, perché non so neanche, come ti posso dire, vaffanculo, non mi viene in mente il nome. Va, fa cuffia, cazzo. Ma sono normale, mi. Già lo sai, a un certo punto. Alla testa sono a posto. Guarda. Ascolta, Antonè, tu rimani una curiosità, ma qualche birretta oggi ci è uscita? No, assolutamente no. Non ci credo. Sei andato al Vindiolo? No, assolutamente no. Vabbè, dai, allora ti credo, dai. No, me lo fa spesso questa cosa qua. Lo sto dicendo io. Me lo fa spesso questo, a un certo punto. A un certo punto non riesco più a ricordarmi delle cose, non lo so. Poi in relativa mi ricordo, capito? Il discorso è quello. Falandero, che burdente. Andiamo a parlare, che burdente. Va bene, Antonio, dai, già ci credo, lo sai che io ti credo, non c'è problema. Vabbè, vuol dire che sicuramente, hai avuto a che fare stamattina e quindi non sei potuto passare. Prendiamola così, dai. Io, la verità, ero qua a casa, il problema è quello, a un certo punto mi viene con le cose, davvero, non sto scherzando, poi vabbè, a un certo punto non lo so, ti faccio vedere le cose, sto facendo la documentazione, eccetera eccetera, hai capito? Vabbè, non fa niente, dai. Antonio è passato a salutarmi e mi ha fatto piacere. Ho mollato l'escavatore, siamo andati così, sono andato a trovarlo lì dopo la macchina e vabbè, mi sono trattenuto 10 minuti con lui e poi ho mangiato. Vabbè, non c'è problema, fegato, non ti preoccupare per quello. Comunque sia, te lo solucido io. C'ho un problema, hai capito? Quindi a un certo punto vabbè, già lo sai anche tu. Eh beh, ma si può entrare in questo canale? Certo, avanti, avanti, entra pure, non c'è problema. Mi verrà giù la televisione. Prego, prego, non c'è problema. Ah no, pensavo che non si poteva entrare, siete tutti veloci con questa portante, ma quando mai? Buonasera a tutti comunque. Antonello, secondo nome è Falcone. Magari, cazzo, voi state con Falcone. Ciao, bra. Sai che dove l'ha fottito la baracchina Falcone? Guarda, oh fra, quando c'era Falcone, che adesso vabbè è anzianotto, non penso che sia morto, penso che sia ancora vivo, l'unica cosa che lo faceva calmare è quando gli dicevo: mi Falcone, se non stai buono vengo a casa tua e ti butto giù la porta. E lui: ah, va bene. No, già è vivo ancora, già è vivo. È tranquillo. Sì, sì, sì, sì. Una volta la madre allucinante alle 5 del mattino abbiamo svegliato. Bum bum bum, suona la porta. Capete rotte, coglioni! Va bene, dai. Riprendi a tu. A tu che sei fuggito, Gavino. No, io non l'ho conosciuto questo Falcone. Non l'ho conosciuto. E quindi Antonè, allergia? No, non è allergia, no. Uia, la sapete le cazzo, che è meglio. Non è questo che è allergia, no. È altra questione, il discorso è quello. Hai capito? Quindi devo fare tutto esame, contro esame, eccetera, eccetera. Poi lascia prendere, guarda. Secondo com'è, io sono fregato. A un certo punto. Fai esami, fai Antonè. Se non stai bene, se hai queste cose, fai accertamenti e cose. Io ho un po' di sonno, ragazzi. Io ho un pochino di sonno. Io sono alle 9:30 in radio, comunque, se voi volete proprio saperlo. Vaiti. Aspetta, Gabi, scusami, che stavo guardando dei video sul 950, però è sempre in inglese, porca miseria. Quindi ce lo guardiamo, magari sabato mi avvicino, lo guardiamo il manuale e lo troviamo subito quella cosa. La troviamo subito. Ci compri il pan? Antonio è entrato, sì. Ero in bagno. Sai cos'è che sabato prima mattinata però, perché poi ho un impegno di un pranzo con radioamatori e quindi devo fuggire, però sabato in prima mattina si può fare. E lo facciamo prima mattina, alle 6:30 sono a casa tua. No, ma non ti aprirò mai. Mi apre il cane, non ti preoccupare. Ti fa entrare Argo, prego, accomodati. No, va bene, non ci sono problemi, tu mi dici l'orario, io già sono sabato, già sono libero. Poi se Franco il sabato vuole scendere, gli modifico quel balone e si fa il dipolo. Ah, fra, cosa ne pensi di questa cosa che sto proponendo? No, lo lascio così, dai. Lo lascio così adesso, che ho visto che va bene, riceve un bel. Come vuoi. Non ci sono problemi, lascialo così. Se ti dovesse salire in mente, già lo sai. Io vi devo mollare perché c'è un bel sonno. io vi devo mollare perché c'è un bel di sonno, cioè mi è venuto la bianca adesso, riprenditi. No, dai, sono appena entrato, io dormo 10 minuti, non mi mollare adesso, 10 minuti il tempo di bermi un digestivo e poi dai, molliamo tutti quanti, ma almeno 10 minuti. Allora aspetta che faccio entrare i cani e così dopo prendo e mi corico direttamente, aspetta che faccio entrare, riprendi. Cappa, poi fagli parlare anche alla radio, che vuole parlare con Antonello uno. Il fatto del Fornese. Antonello, un consiglio, stai attento, non ti mettere dietro, non ti girare di spalle che ti salta, è quello. Già certo, non ti preoccupare per quello. Antonello, l'ha fatto a me, guarda, che va bene, oh, deve essere innamorato di me, ogni tanto mi vuoi saltare. No. Ma sei sgazzato la verità a me, qua, boh. Povero cagnetto. È della mia cagna, boh, non lo so, però ogni tanto vuole dare di suo, vabbè, bisogna accontentarlo. No, non proprio accontentarlo bene, però intanto, insomma, bisogna cercare di calmarlo, Ma chi a me? A te. Dimmi. Poi non ti devi preoccupare, è piccolino e già non ce la fa a saltarti. Poi sei abituato ad andare a cercare terza gamba. È sicuro. Mica sì. Vabbè, non ti voglio dire niente, fregatene. E comunque ho fra. Anche il mio che cazzo, pesa 55 kg, sta andando intorno ai 60, quando gli do confidenza, lui prende, si mette in piedi e vuole fare il predominante, prende tanti di quegli schiaffi a faccia, poverino, che la mette a bassa. Capo, quando è ieri, no, ieri o anche ieri, sono andato a casa del mio cognato, sono andato, e c'è un pastore tedesco, si è pisato un rito, e guarda, due gusti più alto di me, aggiudimi due raggi quanto si è pisato. Sì, perché poi anche questo è alto, questo quando si mette dritto è alto, però siccome sa che il maschio alfa in famiglia sono io, quando lui si mette che vuole magari giocare, vuole fare, capire che vuole padroneggiare, ha tanti di quegli schiaffi a faccia che abbassa la testa. Mi fa ridere perché è sottomesso, no? Si abbassa la testa, basta, finiscila. E allora, fine e via d'impresa. Sì, dai. Comunque Antonio, stavo scherzando. Vabbè, però, sai cos'è, dà fastidio, nel senso che se viene una persona e fa una cosa del genere, no, non va bene, io subito lo blocco perché deve stare al suo posto, non deve stare a rompere le balle. Quello già è vero, perché a volte c'è, come questo come mi ha visto, mi è saltato addosso, mi ha messo sul petto, mi ha messo le zampe, cazzo, tu che più ha piazzato un gabbo, vai da Mirug, che ha due gusti di me. No, ma poi sai cos'è, che è pesante, insomma, allora cerchiamo di farlo stare al suo posto. Andame, Antonio, riprendi, dai. Ma chi è quel cagnetto che mi stava morsicando le gomme? E allora, quella vuole le tue gomme per come cingomma. Un monellino, Debbe du grosso, ya. Debbe du asso. Pilarsi i denti, quello lì erano le gomme. E cucciolotto ancora, cucciolotto. Cappa. Andava a pigliarsi i curi con me, ti grande, e fa da bravo. No, ma è bravo, è che non le piace, ho notato che non le piace la cosa che cammina, tipo, scusate che abbasso qua, ecco qua, non le piace la carriola, non le piace lo schibo, non le piace la ruota della macchina, qualsiasi cosa che è in movimento lui le dà fastidio. Io quando cammino con la carriola, per dire, molte volte che prendo la, che ne so, prendo un po' di legna per portarmela a casa, sta sempre a morsicarmi la ruota. Ma con la macchina deve stare attento che non ci cala la testa sotto. E beh, direi tu. Lui, no, lui cerca di morsicare, però deve stare attento, sì. Giustamente, adesso per dire, io, mio figlio aveva uno skateboard, no? Io glielo do a giocare, lui sta, lo prende, lo alza in alto, lo butta, lo fa camminare, si mette sopra, però se cammina lo deve morsicare. Niente, me da pento. Antone. Aspetta, un secondo, chiamo Giovanni, un secondo, se, almeno, se forse la sentiamo al baracchino, due minuti. Chi c'è? Giovanna c'è. Aspetta, io la chiamo. Dimmi, capì. Guarda il telefono, guarda cosa ho recuperato oggi. Aspetta che vado a prenderlo. Guarda, fra. Cosa ha recuperato? Aspetta che me lo sta portando Nicolas. Guarda questo tubuti. Questo è bello, altro che... Cosa dici, fra? E quanti metri è? 5 metri. Aspetta che sta entrando Giovanna. Mi sono dimenticato che dici che avevamo un FM, noi la M. Aspetta un attimo, appena entra io dico di passare l'FM. Eia, Gavino, entra dentro il tubo innocenti quello. Ehi, a voglia, troppo largo, Ma quello è grande, quello è, sarà un 63. No, oh, c'è scritto, Giovanna. C'è il metro, 70. Vabbè, non ho visto la seconda, ecco. Non ho visto la seconda fotografia. Oh, neanche io l'avevo vista. 70, buono. Quello lì è buono, Nick. L'ho recuperato stamattina. Ma aspetta, 70 è un casotto però. Perché devi mettere l'anima dentro. Cosa? Sì, ma quei ferri che ci sono dentro, saldati sono? Da quanto è lungo il tubo? Sono i rinforzi quelli lì. Cavolo, tu mantieni il vos dando. Sì, è un rinforzo, fra. Buono. Così tiene al vento e a tutto. Lo sapete di dove è quel tubo? È di quelle tende da bar dove si avvolge il telo. Allora, ne ho uno, anzi ne ho due. Ne ho due gavi di quello. Ne ho due e li ho usati. Li ho usati per appendere le salsicce. No, te li do io i tubi per le salsicce. Non ci credi? Ho recuperato la tenda da un lavoro che ho fatto e credimi, le ho utilizzate veramente per appenderle. Te li do io i tubi delle salsicce, non usare quei tubi, quelli lì sono belli per fare. Quanto sono di spessore quelli tuoi? Sono spessi perché sono... Ma sai cos'è il bello? Allora, il bello è, ti spiego, il bello è che sono in alluminio e quindi la carne, o perlomeno il budello, non si attacca, mentre invece il ferro tende ad attaccarsi e quindi può succedere che, siccome in un primo momento di asciugatura tu devi mettere al contrario, succede che quando si asciuga si può attaccare, mentre invece nel alluminio no, non si attacca, quindi 2-3 giorni poi le giri, capito? Sì. Comunque l'ho recuperato in garage. Ma in garage adesso sta bene lì. Tieno che è buono. Io addirittura l'ho cambiato, in un altro ne ho messo, avevo un tubo cavabile che ho preso, avevo recuperato. Cioè va, è vero, FM. Praticamente, no? Dove c'è un bullone che poi va a bloccare entrambi dopo che li ha allungati. E lì si attaccavano, allora ho dovuto mettere una sorta di quello scotch, come si chiama, di alluminio, per far sì che non si attaccava quando andava in fase di asciugatura. Guarda, se io di quei tralicci ne ho quello che ho nell'antenna, ne ho altri due pezzi da 3 metri, quindi sono 3x4, 12, più 5 di tubo, più l'antenna. Secondo me sale? A voglia. Fatti 4-20 col cavo acciaio, sale qualcosa, recupera un segnale. Certo, più sali, vabbè, noi siamo bassi, ti rincontro che noi siamo bassi, io sono appena più alto di te, perché sono un po' in su, però puoi raggiungermi se sali. Il problema è poi tirarlo su, perché di lì bisogna fare un lavoro un po', di lì bisogna mettere proprio il traliccio a terra, invece di tenerlo sul tetto, metterlo a terra e fargli quella basculante che ha già, però lavorare a terra e metterlo davanti alla porta del garage, capito, il traliccio. Quindi sali di 12 metri più 5, ce la fai in due a tirarlo su, e poi zancato con i suoi morsetti, e allora così raggiungi qualche risultato. Allora, no, io sinceramente te l'ho già parlato, da solo è impossibile. Perché non ho un sistema da lavorarci da solo. Vabbè, comunque, per il momento è questo. Ma in quel modo da solo non ce la fai a farlo salire, anche se lo faccio da terra col basculante, da solo non ce la fai. Inizia ad essere 12 metri di traliccio, più fai che ne lasci un metro dentro il traliccio di quel tubo e vai a 4 più l'antenna, lo sai, un tubisa. Non lo metto in dubbio. Va bene. Vai, fra, ripeto. Ma chi stava entrando per caso? Lasciamo il bianco. Chi deve entrare? Chi è che sta facendo entrare Antonello? Ma boh, ho capito la sorella, boh. Sì, stava entrando Giovanna. Vai Giovanna, in FM però, Antonello. È morto. Vai Anton, riprendi. Antonello! 2 minuti, cazzo, bravo! Cosa fai, cazzo, fai la pipì, no? La pipì! Ah, non c'è il pappagallo! Sono fuggito! Cazzo, diavolo, cazzo, ce la fai, cazzo, a fare pipì! Cioè, senza pappagallo, cazzo, a farla fuori, non esiste, no? Io penso che il cattetto. Non c'ho il catetere, già lo sai, quindi fregate. Antone, ma il tubo del catetere deve tenere in fogna o butti? E allora, sono inquina. No, ma... Non ti dico più niente, vaffanculo, tutti e due, uno e l'altro. Ascolta, chiudi tutto, Antone, fai entrare la Coca-Cola, dai. Sta poco entrare Giovanna, l'ho già chiamata al telefono, quindi entrare, sta poco lì, speriamo che la senti, perlomeno, perché lì lo sai che è dall'altra parte, quindi a un certo punto. Dammi il numero di telefono, io la chiamo io. La chiami? Dai, la chiamo io, dimmi. Vabbè, il telefono lo chiami, non c'è problema per quello, io problemi non ne ho. Già lo so che non hai problemi, mandami il numero di telefono suo, aiuto. Ehi, ma tu vuoi il cattetere dove lo butti, in fogna o fuori dal terrazzino? Al terrazzino, al volo. Aspetta un secondo che gli mando il numero di telefono a Tino, così almeno la chiamo al telefono se è a posto, così impari bello bene, hai capito? E ti fa schiattare. Ma io Antonio, muoviti però, dai. Aspetta un secondo. Ma dove t'acciai? Boh. Oh, io vi saluto a tutti. Sto addormentando. Buonanotte a tutti. Senza dimenticare nessuno. Ciao ciao. Ciao a tu, ciao. Dai, saluta a Gabriele, eh? Mi raccomando, fallo giocare che ne ha bisogno. Ciao, divertiti. E raga, Gabriele. E allora, salutami a Gabriele. Fallo giocare che ne ha bisogno, ok? Ciao. Vicino a me qua, poverino, è stanco. Sta facendo la nanna, ok. No, il cavolo se gioca a voglia, solo che non sta tanto bene, poverino. Ok, dai, buonanotte a tutti, senza dimenticare nessuno, ciao ciao. Ehi, ciao Antu, buonanotte. Saluti in casa, saluti, saluti a te, a cuore e familiare. Ciao ciao. Vai, fra. Ehi, ciao Antonio, buonanotte, buon tutto, dai, ce la riascoltiamo. Ciao Antu, ciao, salutami a te, a cuore e familiare. Da un bacio al bimbo. Ciao ciao. Benvenuti, arrivo subito. Va bene, va. Non la vuoi far entrare, ho capito. In FM, in FM. Ma che, boh? Aspetta due minuti, scusa, boh. Ma in fretta secca, boh. Sono qua, insomma, è molto da aspettare. Boh, mi ha già bevuto la bottiglia di Mirto. Antone. E siamo giù sulle barricate. Barricata! Niente ridato lì. Oh, cocco! Antone, ma una cosa te la posso chiedere? Quello sono, tutti e due maniaci sono qua là. A un certo punto, cosa devo dire? Boh. Ma alla fine il coccodrillo capito lei come fa? No, non lo sa ancora. Non ho capito niente. Alla fine? Il coccodrillo capito lei come fa? Il coccodrillo... Ma ho capito, fregatene. Tu non sai come fa il coccodrillo, ma e come fa il bradipo? Carità, ma se che guarda, tutti e tre guarda, non fissete. Beh, bravato, via. Il bradipo è molto calmo, molto calmo. Calmo e attento. E beh, a casa non mi dita ancora. Sì, vabbè. Guarda, alla fine poi, cosa vi dica, a un certo punto, Antonio? A un certo punto, mi sa che se non lo senti la baracchino, è meglio che la senti al telefono, che è meglio. Aiuto, mandami su WhatsApp il numero di Coca-Cola, aiuto. Intanto, se entra con la radio, non lo sentiamo. Dico che c'è nell'FM, dai. Aspetta tu, due minuti. Due minuti. Mio tempo è prezioso, me. Sei ancora due minuti e sono passato a mezz'ora, Ma che mazzano mi viene a travagliare chi sono? E mica domani mattina devo lavorare io qui. 3, 7, 1, 3, 9, 9, 2, 5, 6, 7. Lasciare il messaggio dopo il segnale acustico. Prego, lascia il messaggio. Ma il coccodrillo come fa? E Bettino? Non sono riuscito a prendere carta penna e calamaio. Cos'hai dai sagos? Ah, allora visto, vai. Antone, ma non sai il numero di qualche travone che frequenti tu, quello lì no? Il coccodrillo a me. Oh, sembrava un ponte. Ma guarda che il numero di telefono di Giovanna davvero, non so se è scherzato la verità. Quindi, non lo so io. Lui andò. Aspetta. Per inviare il messaggio, digita 1. Per ascoltarlo, digita 2. Per registrare nuovamente, digita 3. Ok, ho schiacciato 3, vai. E beh. Ma, da, io te lo... A un certo punto è meglio che si dia il numero del telefono. Così parli con lei direttamente, la verità. Ma se te l'ho detto, là, mamma mia, mandamelo su WhatsApp. Aspetta, due minuti, là, te lo mando su WhatsApp, te lo mando. E io aspetto, boh. Oh, mi sembrava quel ponte della Marina, che... Sì, quei numeri... Vabbè, sono, quelli sono preimpostati dalla team. Capo. dai, da 7-3 minuti cosa so. 3-4 è là, io sono, non è che. Antonio, mi sei chiudendo la faccia al microfono. No, perché c'è Gabino che sta addormentando. Ogni tanto gli viene il colpo di sonno. Non mi state pensando di queste tutte e tre, il bello è quello, il discorso è quello là. Io che cazzo di colpa io, scusa, a un certo punto per avere il numero di telefono di Giovanna, il discorso è quello lì. A un certo punto dovete aspettare, no? Che io devo fare. Non lo so. Vabbè, ma lo sai che io sono uno di famiglia, quindi. Veramente. Antonè, io sono di famiglia, quindi, scusa. Sì, tu sì, ma me ne date due, no? Cazzo, è bello quello. È quello lì. Non va a far culo tutte e tre, cazzo. Aspetta un secondo che. Che ti mando le. Cioè, ti mando. No, aspetta, un secondo. Mi sembra che ce l'ha Giovanna il mio telefono tuo. A quanto mi ricordo io, l'altro giorno, perché dovevi fare quel lavoro in casa, quindi ce l'hai tu il numero di telefono, a quanto mi ricordo io. Ah, questo non lo so, questo non lo so. Attore, guarda che gli altri due non gliel'hanno chiesto il numero, Sì. Aspetta appena entra. Vediamo un pochettino cosa dice lì. Poi non lo so. Gabi, non rompere il microfono quando ti abbassi la testa che mi è stato un colpo di sonno. Che microfono costa? Nella fronte ho il segno grande quanto la capsula del Turner. Che costa il microfono? Se lo rompi poi sono fatti tuoi, Ho tutta la fronte a buchi. No, le radio sono in alto. Ui, auguri mio. Vabbè, dai, ogni tanto ci vuole. Vabbè, dai, ogni tanto una risata la sera. A voglia. Dopo 40 anni di lavoro. A proposito, Gavino, ma poi risposta ne hai avuto? Sì, ce lo devo ancora leggerlo. Ma adesso lo ascolto e te lo giro. Capito? 5-0 Charlie Papa 5-0. Vabbè, fammi sapere che così vediamo se è interessato o meno. Charlie Papa 5-0 Bastard Munchkin French merda 5-0. Hai capito bello bene, capito? Antonio, ma non sarei tu no a 27555 che inizi Charlie Papa? Io? Oh, non sai da quando sono che non entro più in cosa, non bevo il tempo come abusivo, quindi a un certo punto adesso l'unica cosa che mi viene in mente, la verità, è usare il PMR in modo, dato che si fanno le gare, come si dice, no, 150 km, 120, eccetera, una cosa del genere. Adesso la faccio e se la abbia il culo. Sì, ma cosa devi cosa deve le gare? Che gare devi fare? Le gare nel senso che, cazzo, secondo te, cazzo, scusa, se uno ti chiama dalla Liguria e tu rispondi in Sardegna, no, non ti va bene, cazzo. È un record, la verità. Prima non succedeva, adesso succede. Il discorso è quello, tutto lì. È quello che io, hai capito, rispondo più che altro. Adesso, vabbè, finora non mi è mai accaduto, però a un certo punto, se dovesse succedere che io sento qualcuno da Liguria, come si faceva prima in 433, in PM, cioè in LPD, risponde a voi, se rispondo non me ne fotte nuda, hai capito? Il discorso è quello lì. Ma tu in 433 non puoi entrare. E chi se ne frega? Non mi interessa niente a me. Io entro, non mi interessa niente a me. La verità. Perché la 433 è già radiomatoriale. Mentre tu devi entrare solo in 446. Ma non mi interessa niente a me di quello lì. Se ti ricordi bene, tanto tempo fa, non adesso, io ti parlo di 7 anni fa, parlavamo tutti in 433-075, o mi sbaglio? Parlavamo tutti con la Liguria, o mi sbaglio? Ma dopo cosa ti hanno detto? Ti hanno detto sparisci da lì, se non so cavoli. Vabbè, ma adesso comunque sia, cioè, non c'entra niente, la verità. Se dovessero chiamarmi a me in 446 canale 7, hai capito? 081, a me di quello lì non me ne fotte nulla, hai capito? Sono frequenze normali, non sono frequenze come il PMR, cioè come l'LPD più che altro, hai capito? Sono solamente frequenze PMR, boh, basta. Si può parlare tranquillamente, il discorso è quello lì, lo fanno tutti. Se tu controlli su Facebook, tutti quanti stanno parlando in PMR, stanno facendo le gare a vedere chi arriva più forte da una parte all'altra, il discorso è quello. Quindi vuol dire che non c'è nessun problema, il discorso è quello. Non è che non so frequenze più che altro, hai capito quello che stai dicendo tu. Ma tu lo sai che con quelle frequenze devi uscire con mezzo watt, Antone? Allora, mezzo watt, sono tutti quanti con 5 watt sono. E smetti, ma già lo sai che tocca. Sono tutti con 5 watt sono, lo dicono tutti, cazzo. C'è scritto anche addirittura che tutti 5 watt e basta, stanno facendo tutti quanti così. Già lo so che sono così, però di lì se con mezzo watt bisogna uscire. Non è che... Per me c'è meno di mezzo watt non potresti uscire, con l'antennino di gomma. Con l'antennino di gomma. Con l'antennino di gomma. Invece con le direttive, con antenne quadre. Mezzo watt. Vi denuncio tutti adesso. Sì, tutti con l'antenna di gomma e basta. Senza avere la direttiva e niente. E quindi va bene, perché è la cosa giusta, la verità. Non è che ti mettere una direttiva a 15 elementi, come si faceva una volta, 433, eccetera, eccetera. Non esiste, capito? Vabbè, io ho 3,2. Comunque Antonio ancora non hai mandato il messaggio, Sto aspettando Giovanna che entra, cosa vuoi dire che io? La chiamo e ci faccio mandare un messaggio. Oh ragazzi, io devo chiudere le trasmissioni, che domani mattina ho la sveglia presto. Le chiacchiere sono belle, le risate sono belle, però è arrivato il momento di chiudere le trasmissioni. Scusatemi la maleducazione, però è così. Bene signori, con questo vi saluto, ciao Antonello, ciao Franco, ciao Tino. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Io qua chiudo al 27.105, cioè ascoltiamo le prossime. E poi 46. E via, ci ascoltiamo le prossime e buona serata a tutti, anche a chi si fosse fermato per fare un po' di ascolto. Stanotte è andata così. E buonanotte, dai, riprendi Tino, ascolto il finale e poi chiudo. Mi raccomando Antone, non fate i due burumani e ci sentiamo alle prossime. Ciao. Guarda che io sono qua. Parlo in due, non parlo da solo, mi. Io parlo da giù a su, mi. Cioè, da su a giù, la verità. Il problema, sai cos'è? Che in pratica Giovanna non ascoltate voi, perché dall'altra parte del palazzo, e quindi a un certo punto è quello il problema, capito? Va bene, va bene. E dimmi no, perché è vero. Va bene, dai, allora se state chiudendo, ciao, buonanotte a tutti, ciao Tino, ciao Gavino e ciao anche a Antonello, ce le ascoltiamo le prossime, anche io me ne vado a nanna, ciao ciao. Ciao, ci vediamo alle prossime anche a te, stammi bene. Va bene, va bene, va bene, io lo stesso, dai, mollo perché me ne sono da coricare. Vabbè, Antone, ci sentiamo più tardi, cioè più tardi, domani, se tutto va bene, vado a coricarmi, non ce la faccio più. Sei secondo, due minuti, Due minuti va bene, Tre, nove, due, cinque, sei, sette, lasciare il messaggio dopo il segnale acustico. Per inviare il messaggio digita 1, per ascoltarlo digita 2, per registrare nuovamente digita 3. Per inviare il messaggio digita 1. Hai capito? Sì, Antone, vabbè, dai, pazienza. Bravo, io devo mollare, che devo preparare ancora un po' di roba, poi devo dare ancora a mangiare il cane, quindi mi prendo un po' di tempo, dai. Ci sentiamo domani, Antone. Ciao, ciao, buonanotte. Buonanotte. Ehi, aspetta due secondi. Aspetta. Ancora. Sta appena, cazzo. Due minuti. Tiro. Ui, Nara. Ascolta, ho chiamato Giovanna. Mi hai detto di, in pratica, di chiamarlo verso le 6 di sera, domani sera. Hai capito? Alle 6 di sera. Così almeno parlate assieme. Siccome c'è un casino a casa sua di bambini, eccetera, eccetera. E quindi non so come cazzo, hai capito? Sì, cioè sistemarli, hai capito? Il discorso è quello. Comunque sia, adesso domani sera richiamarlo, non c'è problema, ok? Va bene, ma io non ho neanche il numero, quindi non posso. Vabbè, dai, adesso sentiamo fine settimana, dai. No, te lo do io il numero di telefono, per quello non ti preoccupare, fregatene. Il numero di telefono te lo do io, così la chiami tu. E così vediamo la roba là, perché? D'accordo, così almeno sei tranquillo, eccetera, eccetera. Siccome c'è i bambini, eccetera, eccetera, che è un togliaio, cazzo. Lo so, guarda, lo so anch'io di questa storia qua, a un certo punto. Quindi non è che comunque sia, vabbè, domani non c'è problema. Andavo, va bene, dai, ci sentiamo domani Antone, che sto chiudendo, dai, buonanotte, ciao ciao. D'accordo, d'accordo, a domani, buonanotte, dai. Domani ti mando il, come si chiama, non ti preoccupare, ti faccio telefono da lì direttamente, quindi sei tranquillo e eccetera eccetera, ok? Andami, ciao ciao, buonanotte, ciao, che sto chiudendo. Tanto devi fare un lavoro a lei, già lo sai anche tu, no? Quindi a un certo punto Perossi, a quanto mi ricordo io, quindi mi ha detto avanti ieri, deve andare a Ossi per fare il lavoro, più che altro per sistemare tutto, hai capito? Quindi a un certo punto non c'è problema. Allora, ciao Antone, buonanotte. Ascolta, ti volevo chiedere, dato che più che altro per me quella specie di cazzo di merda che ho io, di sabato puoi passare a controllarmelo, se va bene, se non va bene, se a norma, eccetera eccetera, io lo sai. Quindi a un certo punto sai di che te lo sto parlando, già lo sai anche tu. Ascolta, facciamo una cosa, sabato non ce la faccio, che sono impegnato, facciamo domani sera, quando esco dal lavoro, va bene? Tu sei libero? Sì, sono a casa io, passa a casa, non c'è problema, così almeno lo vedi eccetera eccetera, perché non è possibile che io ci metto qualcosa di lì e in pratica il fumo entra all'interno, non va all'esterno, hai capito? È tutto lì. Vabbè, sai cosa fai tu? Quello tu è mettere il tuo, quindi a un certo punto non c'è problema. Beh, facciamo domani sera, quando esco dal lavoro mi faccio un salto a casa tua, tanto son vicino, così vediamo un attimino cosa è successo, ok? Però chiamami prima, chiamami alle 5, ok? Chiamami però, Antonè, se non mi chiamano alle 20, qua. Ti chiamo alle 5, ti chiamo, non ti preoccupare. Va bene, ciao ciao ciao, buonanotte, che sto chiudendo. Altrettanto, ciao, buonanotte, a domani alle 5, dai, ok, non c'è problema. Chiamami, dai, ciao ciao ciao. Ciao ciao.